più due probabilmente non fa tre. Ah, il mondo indietro va e tanto molto con le lance si caccerà. Passo con l'aviare o con l'ebola e non venite a dirmi che non ve l'ho detto. La mente mia ha già fin troppi pensieri, ma sono disegni chiusi in un cassetto ad alta velocità. Chiusi in un cassetto ad alta.